Buongiorno. Grazie. Buongiorno e benvenuti alla prima delle nostre lezioni di jazz. Quest'anno, visto che l'anno scorso c'è stata una richiesta pressante, ci fa naturalmente molto piacere, raddoppiano, e anzi vorrei ringraziare l'auditorium, in particolare Roberto Catucci, che produce questa serie di lezioni, per aver accolto così questa richiesta e questa domanda, e ringrazio voi per essere così numerosi già a questo primo incontro. Poi si sa, il secondo non viene nessuno, però insomma almeno alla prima facciamo così, abbiamo una bella spinta. Come sapete, le lezioni quest'anno sono 10, si svolgono tutte la domenica mattina alle 11, secondo un calendario che è pubblicato sul sito. Il prossimo appuntamento, ve lo ricordo, in realtà è subito domenica prossima, perché come sapete all'interno del Roma Jazz Festival sabato prossimo ci sarà la Mingus Dynasty, e io farò appunto un incontro sulla musica e la vita di Charles Mingus domenica prossima alle 11, proprio in connessione con il Roma Jazz Festival. In realtà poi nel corso di queste lezioni di jazz, nel corso dell'anno, ci saranno altri legami anche con la programmazione dell'auditorium. E poi vorrei anche ricordarvi che se avete voglia di riascoltare le lezioni, l'auditorium mette quasi immediatamente online sul suo sito i podcast di queste lezioni, naturalmente privi delle parti video o delle immagini, ma comunque è possibile, naturalmente è possibile riascoltarle. Oggi apriamo la nostra serie di lezioni. Sapete che le lezioni sono divise in vari temi, in varie aree. Una di queste si chiama Viaggio nel capolavoro. L'anno scorso ne abbiamo fatte un paio, se non ricordo male, l'ultima era su Coco di Duke Ellington, e in questi Viaggi nel capolavoro scendiamo nel dettaglio di una grande opera jazz. E quest'anno, devo dire, anche proprio grazie a un suggerimento di Roberto che ho accolto immediatamente, abbiamo pensato di iniziare con uno dei dischi di jazz più famosi in assoluto, e cioè A Love Supreme di John Coltrane, registrato il 9 dicembre 1964. La copertina dell'album che vedete alle mie spalle è una immagine celebre. Vale la pena di spendere una parola su questa immagine. È una fotografia che poi è diventata quasi iconica, no? L'immagine di Coltrane. E la fotografia è stata fatta da un fotografo dilettante, non professionista, che era Bob Thiel, cioè proprio il produttore del disco, che colse qualche mese prima Coltrane, forse un anno prima, Coltrane in questo scatto, e a Coltrane piaceva moltissimo questa immagine, perché come vedete ci comunica un'idea, come dire, di musicista concentrato, appunto spirituale, immerso nella profondità dei propri pensieri. Un'immagine peraltro molto seria, che non corrispondeva del tutto al carattere di Coltrane, che invece era una persona piena di humor, molto amichevole, sicuramente un uomo di quelli che si definirebbero un pezzo di pane, diciamo così, un uomo buono, un uomo disponibile, ma anche dotato di uno humor e di una capacità di divertirsi non indifferente. In realtà sembra che ridesse poco in foto, cioè non amasse le foto in cui lo si vede ridere, perché a causa della ormai superata dipendenza dall'eroina gli si erano rovinati i denti. Tra l'altro aveva sostituito l'eroina con una droga che anch'io apprezzo molto, che erano le caramelle. E quindi, infatti, se guardate su Ascension c'è questa fotografia presa dal basso dove lui finalmente sorride, o comunque sta parlando, e si vede questa dentatura tutta rovinata. Quindi, diciamo, quell'immagine seriosa è anche un tentativo mascherare i propri problemi odontoiatrici. Non vorrei ridurla adesso in maniera così un po' banale, però c'è anche questo aspetto. Però è una foto bellissima, su cui magari poi, proprio sul formato dell'album, perché vi ricordo che uscì in LP pochi mesi dopo, uscì, se non ricordo male, nel febbraio, tra il gennaio e il febbraio del 1965, senza far aspettare molto tempo, la Impulse lo pubblicò immediatamente, e immediatamente il disco ebbe un grande successo. Un successo che non si è mai fermato, perché come sapete i dischi di jazz sono cosiddetti long sellers, cioè i dischi che vendono nel tempo, magari non raggiungono un picco come i dischi di pop o di rock, e poi magari questo picco è destinato a decrescere, e invece è stato un disco che è immediatamente entrato nelle classifiche e si è mantenuto in una posizione alta, diventando di fatto uno dei dischi di jazz più venduti. Tra l'altro, non ve ne importa niente, c'era una famosa rubrica su Cuore, chi se la ricorda, che diceva chi se ne frega, no? Ecco, mi ci metto anch'io, perché io mi sono avvicinato al jazz ascoltando alla radio negli anni 70 questo disco, e poi con i risparmi del Natale comprarmi questo album negli anni 70. Che cosa c'ha di speciale A Love Supreme? È veramente unico? Come ci è arrivato Coltrane? Sicuramente è il risultato di un percorso, di un processo molto ragionato. Coltrane, che nel 1964 aveva 38 anni, quindi vi ricordo che è un musicista che ha cominciato tardi, anche per questi problemi di eroina, per problemi personali. Coltrane è nato nel 1926, pensate che quando nel 1956 è nel quintetto di Miles Davis, entrambi trentenni, Davis è uno dei musicisti più apprezzati e pagati degli Stati Uniti, Coltrane è un signor nessuno. È uno che è arrivato tardi sulla scena, che è maturato anche tardi, perché la sua piena maturazione avviene con Giant Steps nel 59, quando lui ha 33 anni. Però il A Love Supreme è il risultato del pensiero di un musicista estremamente razionale. Strana la figura di Coltrane, un uomo spirituale, e su questo torneremo, quasi mistico per certi aspetti, e al tempo stesso un musicista che studia le sue cose in maniera razionale, iperrazionale. Se mi permettete una battuta, Coltrane era il classico secchione, cioè era un musicista che quando doveva affrontare un problema lo affrontava in maniera sistematica. Complimenti per il salto, per il passo atletico, beata lei. Lo affrontava in maniera sistematica, in maniera quasi al limite dell'ossessivo, ma che gli consentiva, questo approccio sistematico, un controllo totale, assoluto, globale sulla materia che stava studiando. Allora, Coltrane era riuscito a trovare un equilibrio nel suo gruppo, in questo suo quartetto, intorno al 1961, quando il suo quartetto si assesta nella formazione che conosciamo tutti, cioè McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria. Pochi ci riflettono, ma Coltrane lavorò moltissimo per trovare il batterista e il bassista giusti. Tyner, tra l'altro, l'aveva trovato quasi subito, potrei dire, mentre fece più fatica col batterista e molta fatica a trovare un bassista adatto come Jimmy Garrison. Perché? Perché Coltrane stava cercando una cosa quasi impalpabile nei gruppi di jazz, che invece è importantissima, su cui si riflette poco: una sorta di equilibrio di forze, di energie, di modi di stare sul tempo all'interno del gruppo. Mi spiego meglio. Nei gruppi di Coltrane, in generale, Coltrane tende a spingere molto quando fa i suoi assoli, ad andare molto avanti, si dice nel gergo del jazz a tirare avanti, quasi ad accelerare, e aveva bisogno di un partner con cui dialogare su questo alto livello di energia, e trovò in questo partner Elvin Jones. Trova in Elvin Jones il partner giusto, che aveva lo stesso livello di energia. Quindi nel quartetto di Coltrane si creava un asse di dialogo fra il sassofono e la batteria. Quando ascoltate i dischi di Coltrane dal 61, 60, 61 in poi, aguzzate le orecchie e ascoltate il dialogo che esiste fra il sassofono e la batteria. Poi c'era bisogno, in questa spinta energica così forte che rischia di deflagrare, di rompere gli equilibri del gruppo, di qualcuno che faccia esattamente il contrario, cioè qualcuno che, si dice nel gergo del jazz, tiri indietro, qualcuno che dia un senso di frenata e quindi riequilibri la spinta in avanti di sax e batteria. Chi era quello che tirava indietro? Era Jimmy Garrison. Il contrabbasso di Jimmy Garrison è un contrabbasso, ci avete fatto caso, se qualcuno di voi ha esperienza dell'ascolto dei dischi di Coltrane, sembra sempre quasi arrivare in ritardo. è un musicista che veramente suona molto rilassato, non ha la spinta di energia degli altri, e Coltrane aveva proprio bisogno di questo, di un musicista che fosse in grado di fare da contrappeso all'asse tra sax e batteria. E Tyner è l'equilibrio, Tyner è soprattutto quando accompagna il musicista che sta in mezzo, che fa da bilancia fra sax e batteria da una parte e il contrabbasso che tira indietro dall'altra. Poi ci sono aspetti anche più sottili, se andate a sentire gli assoli di Tyner scoprite poi che Tyner anche lui tira avanti quando fa gli assoli, dialoga con la batteria, ma quando accompagna fa da bilanciere. Questo assetto rimase abbastanza stabile fino al 1964, e questa stabilità era data anche dal fatto che fra il 61 e il 64 Coltrane praticamente non ha quasi per nulla variato il repertorio su cui lavorava. Il repertorio su cui ha lavorato per molti anni è un repertorio stabile, qui trovate una lista di brani, e notate che solamente dei brani più suonati, non sono tutti ovviamente i brani del repertorio, questi sono quelli che fra il 61 e il 63 suonano più spesso, e di questa lista notate che solo due sono brani scritti da Coltrane, due composizioni originali. Quindi per lo più Coltrane suonava pezzi che ormai erano quasi diventati suoi, pensate a My Favorite Things per esempio, ma altrimenti erano pezzi di altri autori, jazzisti, canzoni come The Inchworm o Soul Eyes, che invece era di Mal Waldron, Bye Bye Blackbird e così via. Alcuni come Afro Blue li associamo ormai completamente a Coltrane, ma di fatto non era un suo pezzo. Questa stabilità del repertorio comincia verso la fine del 63 a stare stretta a Coltrane. È sempre meno interessato a suonare questi pezzi. Intanto succedono delle cose nella sua vita privata, e questo non è secondario. In particolare la crisi matrimoniale con Naima e l'incontro con Alice MacLeod, che poi diventerà la sua moglie, Alice Coltrane, che poi diventerà anche la pianista del suo gruppo. Ecco, l'arrivo di la crisi con Naima e l'arrivo di Alice provocano sicuramente un bisogno di cambiamento anche a livello professionale. E non solo, ma Coltrane è sempre più preso da un'idea sempre più spirituale della musica. Torneremo sulla spiritualità di Coltrane più avanti, ma intanto lui sente il bisogno di scrivere dei pezzi, per esempio, più meditativi. E se noi andiamo a vedere una lista delle nuove composizioni originali di quel periodo, scopriamo che ne scrive diverse Coltrane, e sono quasi tutti pezzi lenti. After the Rain è un pezzo lento, Alabama è un pezzo lento, The Promise e Lonely Lament sono a tempo medio, ma hanno un carattere piuttosto riflessivo. E guardate, sono stati tutti registrati nel giro di pochi mesi, come una specie di primo flusso di nuove idee che da tempo Coltrane non esprimeva. In particolare After the Rain e Alabama sono due pezzi molto riflessivi, lenti. Alabama, addirittura, su cui torneremo, è ispirato, è un omaggio alla strage di Birmingham, in cui in un attentato terroristico elementi del Ku Klux Klan misero una bomba in una chiesa, facendo morire tra le altre quattro bambine, e questa atmosfera riflessiva si coglie bene in After the Rain. Vorrei farvi sentire l'inizio di After the Rain, perché il linguaggio che Coltrane usa diventa poi una specie di stampo per molte cose che farà lui in seguito e che faranno i suoi seguaci, cioè un pezzo che sembra praticamente fermo, che non ha swing, in cui le percussioni giocano in maniera coloristica, piatti, timpani, il contrabbasso arpeggia, il pianoforte lo stesso, e il sassofono delinea una melodia lirica e molto nitida. Quindi io ascolterei come il tema di After the Rain dalla registrazione in studio. Ecco, giusto un accenno. Per farvi capire da quale tipo di processo creativo può nascere un'atmosfera del genere, vi faccio sentire una piccola chicca che non trovate su nessun disco, ma che potete ascoltare solo qui all'Auditorium oggi, oppure sul podcast se volete riascoltarlo. Viene ad una registrazione inedita di quelle che circolano fra collezionisti che si scambiano queste registrazioni a volte in cambio di caramelle, cioccolato o altri beni proibiti, ed è stata fatta nell'estate del 1963 in un club di Filadelfia. Vi ricordo che Filadelfia era la città nella quale Coltrane non è nato ma è cresciuto come persona e anche come professionista, in cui Coltrane suona After the Rain, ma attenzione, lui è da solo al pianoforte. Sentirete Coltrane suonare il piano e delineare After the Rain al pianoforte. Quindi sentite, è come se noi entrassimo, anche se siamo al club, allo Showboat, come entrare a casa sua, vederlo al piano e scoprire come dà forma pian piano a questo brano. Il suono è quello che è una registrazione pirata. Tra l'altro, poco più avanti di questa registrazione, Coltrane si mette a suonare Naima e si capisce proprio l'origine pianistica di questo pezzo. Questo sbocco, diciamo così, creativo della seconda metà del 1963 culmina nella registrazione fra l'aprile e il giugno del 1964 di un album bellissimo e sottovalutato, che è Crescent. Questo disco è un disco molto importante che ha un solo... è un disco sfortunato. Un disco sfortunato perché è stato oscurato da A Love Supreme, che arriva pochi mesi dopo e che per qualche motivo cattura maggiormente l'attenzione del pubblico. E quindi questo disco bellissimo, che vi consiglio di ascoltare se qualcuno di voi non lo conosce, ne esce un po' ridimensionato, viene un po' messo in ombra, con qualche eccezione. Per esempio, il produttore della Mosaic, della Blue Note, Michael Cuscuna, ha una volta dichiarato una cosa quasi eretica, dicendo: ma sai, io sono cresciuto ascoltando Crescent e Love Supreme non mi ha detto niente, perché lui era preso di più da questo disco. Questo disco aveva 5 brani, uno di questi era Lonnie's Lament, che avete visto nella lista delle nuove composizioni che quindi Coltrane introduce in questo album. E questo album ha qualcosa di particolare se lo confrontiamo a quello che poi sarà, con quello che poi sarà A Love Supreme, cioè un tipo di struttura che è quella quasi una sorta di suite, in cui per esempio si comincia con due brani, Crescent e Wise One, di carattere più meditativo, più riflessivo, con una introduzione lenta che è quella di Wise One, e chiudere dopo un pezzo rapido come Bessie's Blues, chiudere con un pezzo tutto per percussioni, The Drum Thing, dove Elvin Jones suona timpani, piatti, fa un lungo assolo di batteria, di carattere qui energico, ma comunque con un carattere appunto esclusivamente percussivo. Per capire la relazione che c'è fra Crescent e Love Supreme, vorrei farvi vedere in questa tabella alcune caratteristiche. Allora, abbiamo su una colonna Crescent, sull'altra Love Supreme, e notate che entrambi hanno questo inizio lirico, le prime battute di Crescent, che poi ascolteremo, le prime battute di Acknowledgement. Acknowledgement ha un ritmo latin moderato che è lo stesso ritmo di Wise One. In effetti in Crescent c'è un pezzo swing moderato che non ha corrispondenze in Love Supreme, che è Lonnie's Lament. Poi abbiamo un pezzo a tempo rapido, che è Pursuance in Acknowledgement, in Love Supreme. In entrambe le suite hanno due blues a tempo rapido, uno molto più leggero, diciamo così, Bessie's Blues, l'altro più impegnativo, Resolution. E infine il finale a tempo rubato, non misurato, con una grande prevalenza delle percussioni, più energico in The Drum Thing, più lirico in Psalm, che chiude A Love Supreme. Quindi, come vedete, potremmo considerare Crescent quasi come una specie di bozzetto preparatorio di Love Supreme. È difficile pensare che Coltrane stesse già pensando a The Love Supreme quando ha fatto Crescent, ma evidentemente aveva in testa un'idea di progressione narrativa della suite, di struttura della suite piuttosto interessante, anche perché, attenzione, se ripensiamo al problema del repertorio, questo è il primo album da molti anni, forse il primo in assoluto, album di Coltrane fatto esclusivamente di pezzi suoi originali, di sue composizioni, che non contiene standard, non contiene interpretazioni di altri. È l'unico, è il primo disco da molto tempo di sue composizioni originali ed è pensato come un concept album. E questo lo rende molto interessante, appunto, come capitolo precedente a Love Supreme. Vorrei cogliere con voi alcuni di questi esempi, appunto. Per esempio, l'inizio di Wise One. Questo è Tyner, ma ci immaginiamo Coltrane che avrà composto questa introduzione al piano. Melodia semplice, nitida. Love Supreme. Se andiamo a confrontare l'inizio qui molto più ampio con l'inizio di Acknowledgement, una fanfara iniziale che un tema, quindi è più conciso, ma l'atmosfera è la stessa. Piatti. E poi entra il famoso riff del basso. Stesso ritmo della batteria, il pianoforte che entra. Impressionante come... Ma non è questa solo l'unica somiglianza che troviamo. Per esempio, in Wise One, Quando Coltrane comincia a improvvisare, a un certo punto introduce un motivo di tre note, su cui torneremo, in una progressione concitata che è molto simile al motivo di tre note, al tipo di atmosfera espressiva che c'è più avanti in Acknowledgement. Ora arriva. Eccolo. E invece in Acknowledgement, un passaggio molto simile. Ecco, tanto per darvi un'idea. Ora, in realtà, al contrario di Wise One, Love Supreme ha evidentemente una specie di percorso, come dire, spirituale, nella successione dei movimenti della suite, piuttosto precisa. Anzi, qui mi faccio aiutare anche da Lewis Porter, che ha scritto una bellissima biografia di John Coltrane, si chiama Blue Train, che trovate anche in traduzione italiana. Sapete che Love Supreme è costituito di quattro movimenti. Io sto dicendo peraltro delle cose senza dire l'ovvio su Love Supreme, perché immagino che voi tutti la conosciate. Chi non avesse mai sentito Love Supreme si consideri un uomo fortunato, perché sta per scoprire, non qui ovviamente, ma quando tornerà a casa e ascolterà, magari acquisterà il disco, uno dei grandi capolavori della storia della musica. Allora, Love Supreme è fatto di quattro movimenti, due per facciata del vecchio LP, e ognuno di questi movimenti è una sorta di tappa di un percorso spirituale. E allora, come dice Lewis Porter, il primo passaggio è acknowledgement, cioè il riconoscimento, dice Porter, del pellegrino che riconosce il divino, la divinità. Ci tengo subito a precisare, e lo vedremo meglio dopo, che qui non stiamo parlando né di una divinità cristiana, né di una divinità da Antico Testamento, né di figure di altre forme di religione monoteistiche, no. È una divinità in senso generico. Coltrane era una specie di panreligioso, non identificava la fede o la spiritualità con una confessione specifica. Anzi, in un'intervista dichiara apertamente che la molteplicità delle confessioni e delle religioni lo disorientavano, lo confondevano. Quindi lui cercava una sorta di sintesi. Allora, su questo torneremo, ma intanto è il riconoscimento di un divino in senso generale. Il secondo movimento, più Suans, si potrebbe tradurre con l'adempimento, ma anche il seguire, l'adempiere, l'accettare quello che il divino ti suggerisce e seguirlo, andargli dietro, ed è il movimento rapido. Poi c'è il terzo movimento, che è la decisione, la risoluzione. È un blues rapido, e dice Porter, potrebbe essere la risoluzione, la decisione a seguire il divino, ed è il momento più trionfale, più energico, più potente, seguito dalla preghiera. Ed è una preghiera quieta, che è una preghiera sostanzialmente di ringraziamento, basata proprio sulla frase thanks God, grazie Dio. Quindi è la celebrazione di un risultato, raggiunto. Questo è il percorso spirituale che in Crescent sicuramente non c'è e che invece viene messo a fuoco in Love Supreme, che quindi diventa una vera e propria suite, la prima scritta da Coltrane, un'opera compiuta e completa in quattro movimenti. A questa serie di quattro movimenti si concretizzano Ops, chiedo scusa, saltato una. Una slide. Fa seguito una, appunto una struttura precisa che è questa. Vediamo se si mantiene, non se ne va. Ok. Vedete che c'è l'introduzione lenta che abbiamo sentito, poi c'è acknowledgement che si basa sul riff di contrabbasso e poi c'è un lungo assolo di sax con il tema più l'assolo. Resolution è un pezzo medium fast, tra tempo medio e veloce. Tra l'altro ha una struttura molto curiosa, c'è il tema, l'assolo di sax, poi di nuovo il tema, poi l'assolo di piano, poi di nuovo un assolo di sax, poi di nuovo il tema. È una struttura che Coltrane utilizzava già dai primi anni 60, che mi consente di fare una piccola osservazione. Coltrane, pur essendo un solista torrenziale, un musicista che si esprimeva pienamente attraverso la libera improvvisazione, in realtà era anche un grande arrangiatore per quartetto, un musicista che sapeva organizzare la struttura dei pezzi in modi molto semplici, molto chiari, con poche mosse, diciamo così, che però eludevano il processo tradizionale dell'improvvisazione. Qual è? Tu fai il tema, poi improvvisi per mezz'ora e rifai il tema. E questo è quello che poi hanno fatto per decenni tutti gli imitatori di Coltrane. Invece qui stiamo parlando di un musicista che, per esempio, in Resolution fa fare l'introduzione al contrabbasso, poi fa il tema, fa il suo solo di sax, poi rifà il tema, poi fa entrare il piano, poi fa un altro solo di sax, poi di nuovo fa il tema e chiude con una coda. Quindi con un'articolazione che non è consueta, che non rientra negli standard consueti del jazz e che dà un suono molto particolare al gruppo. Poi c'è una batteria, l'assolo di batteria che apre Pursuance, e poi ci sono, in questo caso, una struttura classica, tema, assolo di piano, assolo di sax, tema sul blues, un lungo assolo di contrabbasso di Jimmy Garrison, con questo suo tipico stile flamenco, che usa il contrabbasso come se fosse una chitarra, completamente da solo. È un episodio che poi nelle versioni dal vivo, ma nei concerti dal vivo si espanderà. C'è un famoso concerto in Giappone del 66 in cui l'assolo di Garrison dura quasi 10 minuti, è una cosa maestosa, grandissima. E poi finalmente Salm, il tema scritto, come vedremo, del Salmo, che chiude lentamente questa suite fino ad una piccola coda che è identica all'introduzione. Ora, qui entriamo un attimo più sul tecnico, ma voglio spiegarvela questa cosa. Sostanzialmente, ogni movimento è in una tonalità diversa. Il primo movimento ha come base il Fa. Ok. Avete presente il riff di base, ok? Il Fa. Il secondo movimento ha lo stesso materiale, Resolution, scusate, però un tono sotto, Mi bemolle. Per chi non ne sa niente di musica, il rapporto è questo. Ok, tant'è vero che alla fine, io adesso non lo posso far riascoltare tutto il disco ovviamente, ma se vi riascoltate Acknowledgement, alla fine, quando lui canta Hello Supreme, Hello Supreme, poi a un certo punto fa Hello Supreme, Hello Supreme, sta andando sulla tonalità del secondo movimento. Tutto il secondo movimento è in Mi bemolle. Il terzo movimento è una quinta sopra, cioè in Si bemolle. Qui. Ora voi direte, ma perché mi viene a dire queste cose la quinta sopra? Non ci capisco niente. In realtà bisogna capire questa cosa perché è importantissima. In natura ci sono dei suoni che si chiamano gli armonici. Cioè dentro questo suono ne sono contenuti altri che voi non distinguete, come questo, questo e altri, ok? Posso farveli sentire in questo modo. Così. Sentite questo alone sonoro? Questo alone sonoro sono gli armonici di questa nota qui sotto. Il primo armonico è la stessa nota. secondo armonico. Voi suonate questa e dentro quella nota c'è questa, la stessa cosa. Poi c'è un'altra nota nuova, che è una nota 5 note sopra, fa, so, la, si, do. In natura, se voi suonate una nota, ce n'è dentro un'altra che è la replica della prima, e poi ce n'è una nuova. Questa nuova è la quinta. Do, nel caso del fa, fa, so, la, si, do. Allora, suonare un pezzo, prima in mi bemolle, e poi in si bemolle, una quinta sopra, vuol dire fare appello a, diciamo, due pilastri del rapporto fra le note in natura. Mi rendo conto che per chi non è dentro alle cose musicali suona un po' oscuro, però accettiamo questo concetto. Scegliere di andare da mi bemolle a si bemolle vuol dire fare riferimento a una relazione fra le note che è presente in natura. Ed è la relazione più semplice che c'è fra le note. Dopodiché, siccome lui è arrivato a si bemolle, l'ultimo movimento è in do, un tono sopra. Notate che fra il primo e il secondo movimento era andato un tono sotto, fa mi bemolle. Fra il terzo e il quarto fa il movimento inverso, va un tono sopra, si bemolle, do. Ora notate, fra la seconda e la terza parte c'è un rapporto di intervallo di quinta, vi dicevo, vedete, primo quinto, tra la parte seconda e la parte terza. Ma andando a do sull'ultimo movimento, crea un intervallo di quinta anche fra il primo movimento e l'ultimo, fra il fa e il do. Cioè il pezzo comincia con questa nota e finisce con questa. Perché finisce una quinta sopra? Guardate la parte più alta del diagramma. Perché si salta di una quinta? Perché è, come dire, la consapevolezza dell'amore supremo, è l'elevazione spirituale, è la trasformazione spirituale che si traduce musicalmente in un intervallo musicale, nell'andare nell'intervallo musicale più semplice. Quello che si produce, non la replica, l'ottava, da fa a fa, che è la stessa cosa, ma da fa a do, quindi uno scatto che significa una differenza, un cambiamento di stato. Questa cosa voi non la sentite consapevolmente quando ascoltate il disco, a meno che non abbiate l'orecchio assoluto, ma in realtà quando si arriva nella parte quarta sono passati 25 minuti, voi non avete in testa il fa iniziale. Però al compositore tutto questo serve per dare una solidità strutturale che poi inconsciamente c'è, lavora e dà quel senso di, appunto, di solidità, di stabilità all'intera struttura. E dà quel senso tale per cui quando il pezzo è finito, se lo ascolti dalla prima all'ultima nota, quando il pezzo è finito ti rendi conto che non è finito lì dove cominciava, ma sei in un altro posto, anche inconsapevolmente. In realtà il pezzo comincia con un motivo di tre note. Questo motivo di tre note è fatto da una quarta, che è un altro intervallo importante, perché praticamente, se io, scusate se ve lo, di nuovo insisto su questo aspetto tecnico, facciamo cinque note, do, re, mi, fa, sol, ok? È una quinta, abbiamo detto. Se io vado al sol al contrario, scendendo, invece di salire do, re, mi, fa, sol, cinque note. Se io vado al sol scendendo, me ne bastano quattro. Do, si, la, sol. Quindi la quarta e la quinta, andare a fare cinque note sopra o quattro note sotto, è la stessa cosa. Sono l'uno lo specchio dell'altro, diciamo così. Allora Coltrane usa questa idea della quarta come un rovescio della quinta, ed è perfetto per le fanfare. Ok? Thank you. E poi comincia il famoso basso, che è un altro motivo di tre note, su cui torneremo fra un attimo. Lo facciamo partire. Notate che il materiale è tutto minimale, è tutto minimale. Pa, pa, pa, pa. Tre note che salgono. L'ultima è uguale alla prima. E poi. Ora, Coltrane era ossessionato dai numeri. Per lui la musica era una forma di espressione spirituale in una dimensione mistica, ma al tempo stesso era fondata su dei principi numerici e matematici molto solidi. In questo non c'è nessuna distanza fra Coltrane e Bach. C'è il misticismo che passa attraverso il numero. Coltrane aveva cominciato studiando il sassofono proprio giocando su dei mattoncini all'inizio di quattro note. Poi pian piano questo mattoncino si è andato, per esempio Jan Steps, è tutto fatto di mattoncini di quattro note, l'assolo di Jan Steps. Poi lui è andato riducendo questa idea a mattoncini di tre note, che magari vengono elaborati ed espansi. Qui lui gioca in forma... ripetitiva, no? Lo espande e lo riduce, lo espande e lo riduce, va a ondate. Questo principio era presente nel solismo, non nella composizione, ma nel solismo di Coltrane, già dai tempi di So What. Se noi andiamo a vedere, per esempio, come inizia l'assolo di So What, c'è proprio un mattoncino di tre note, che poi diventano quattro. E poi via via lo espande. Sentite come fa. Ora lo espande a ondate, più veloce. Ok? Quindi questa idea di usare il mattoncino da allargare, espandere in maniera elastica, si trova già nel suo solismo. Questo è uno degli elementi del materiale di base, ma non c'è dubbio che il più importante è questo motivo. Sono queste due cellule. Poi vi ricordate a un certo punto nell'assolo di Acknowledgement fa. Comunque, qui ho messo appunto qual è il materiale di base, che a volte ha come base il fa. Ma potete avere anche come base un'altra nota, con le stesse note. Sono principi molto semplici. Tu usi sempre le stesse note, gli cambi il basso e quelle note cambiano di significato. La cellula di base è l'ostinato del basso. Quella che fa Jimmy Garrison all'inizio. Ipnotica, che poi assume un carattere caraibico o quasi africaneggiante con la batteria di Elvin Jones e gli accordi del piano. Coltrane, tra l'altro, era ossessionato dai numeri, aveva anche provato a scrivere dei pezzi dodecafonici, poi aveva capito che quel tipo di struttura era troppo rigida per le sue esigenze. Allora si era limitato a questi principi più semplici. Da dove viene questo motivo così che ci cattura? No? In realtà non è altro che un motivo blues. È un motivo blues che qui assume un carattere più ossessivo, più elastico, più africaneggiante, ma in realtà è un motivo della storia del blues. Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Arriva. È lo stesso. Now when I was a young boy, at the age of five, my mother said gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want. Tu sei Coltrane. Le stesse tre note. Un altro esempio. Ok? Coltrane fa il ritmo, cambia solo il ritmo. Quello di Coltrane. Quello di Willie Dixon. C'è un altro esempio, ancora più clamoroso. Va, è lo stesso. Back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, wanna hold out of love. Wanna hold out of love. Wanna hold out of love. Wanna hold out of love. You feel it. Ok, vedo che la platea è fatta prevalentemente di rocchettari perché improvvisamente si è ravvivata, diciamo, fino a questo momento era così un po' appapagnata dalle quarte, le quinte, le scale pentatoniche, poi di fronte alle Zeppelin finalmente addirittura si esprime. Vi ringrazio dell'applauso, ma guardate che non è incoraggiante, cioè vuol dire che ho parlato a vanvera, cioè senza suscitare alcun tipo di interesse, quindi il resto della conferenza non potrà che andare in diminuendo, perché i Led Zeppelin, vi assicuro, non tornano adesso. Avranno ascoltato Love Supreme? Non lo escludo, come vedremo dopo, non lo escludo, ma certo quel tipo di riff, come avete sentito, sia che lo usi Coltrane, sia che lo usino i Led Zeppelin, appartiene a una tradizione blues. Coltrane, vorrei ricordarlo, al di là degli scherzi, è un musicista che prima di entrare nel quintetto di Miles Davis faceva il sassofonista di rhythm and blues e suonava esattamente pezzi come quelli di Muddy Waters o di Willie Dixon. Li avrà suonati migliaia di volte tutte le sere nei bar neri di Filadelfia e dintorni per campare, diciamo così. Ma c'è un precedente ancora più impressionante di questo riff, è un brano un po' più lungo, ne ascoltiamo una metà, ed è il settetto di Art Farmer, un grande trombettista che si è affermato nella prima metà degli anni 50. C'è un pezzo che si chiama Mau Mau, evidentemente ispirato al mondo africano, al Kenya, ma che in realtà è un pezzo, come tutti i pezzi ispirati all'Africa di quegli anni, di carattere caraibico. Beh, non vi dico niente, ve lo faccio ascoltare. Thank you. giusto per dirvi, è impressionante quando il sax entra e comincia a fare di do da. È lo stesso ritmo di riff di Acknowledgement. Coltrane lo conosceva? Non ne ha mai parlato, né nessuno è andato mai a chiederglielo. Forse anche irrilevante, cioè il riff di Mau Mau, il riff dei pezzi blues fino ai Led Zeppelin e il materiale di base di Love Supreme sono, e il verbo mi sembra adeguato in questo caso, radicati proprio nella tradizione del blues, in questi riff blues, e quindi Coltrane è andato consapevolmente, questo sì, a scegliere una melodia che fosse al tempo stesso incantatoria ma anche molto terragna. E occhio a queste due componenti, la conferenza si chiama, no? Il corpo e lo spirito di John Coltrane, l'anima e il corpo di John Coltrane. Ci sono tutte e due le cose, il riff terragno e l'elemento invece spirituale, diciamo così, più psichico e ossessivo del riff. Un'altra cosa caratteristica di A Love Supreme è che comincia con il contrabbasso. Tum, tum, tum, tum, che è una cosa strana, di solito i pezzi jazz non cominciano con gli assoli di contrabbasso. Invece era una caratteristica che interessava moltissimo Coltrane. Per esempio, Olé, 1961. Due contrabbassi. Lo sapete che il giorno dopo che incisero A Love Supreme, Coltrane fece un'altra versione di Acknowledgement chiamando un secondo contrabbassista. Poi decise che quella versione non gli piaceva e fu scartata. Oggi la potete ascoltare nel doppio CD A Love Supreme, la Deluxe Edition, anzi Deluxe, come ho sentito dire qualche volta, la Deluxe Edition della Impulse, nella quale ci sono anche le alternate takes di A Love Supreme. 1957, è lo stesso riff di A Love Supreme, eh? Il primo disco da leader di Coltrane. E su questo innesta il tema. Insomma, questo elemento incantatorio è assolutamente fondamentale. A questo dovete aggiungere un'invenzione di McCoy Tyner. Adesso sento i rocchettari fremono quando vedono le note sul pentagramma. Qual è questa caratteristica? Questa ve la voglio spiegare in un secondo. La volta nello scorso ciclo di lezioni di jazz, la prima è stata dedicata a Kind of Blue e al jazz modale, e lì ho spiegato alcune cose che riguardano un certo tipo di linguaggio, ma ripeto in maniera estremamente semplice. Un modo semplice per fare gli accordi è costruire gli accordi contando ogni tre note, per esempio do, re, mi, mi, fa, sol, quindi metto do, mi e sol. Ok? Io se metto ogni tre note do, mi e sol, posso fare piccoli cambiamenti e avere degli accordi molto chiari, per esempio questo è maggiore. Se metto un'altra nota, il mi bemolle, questo è minore, ok? Questo è minore, maggiore. Tutta la musica tonale, da Monteverdi fino a Bruckner, è basata su questi accordi, di tre note in tre note, do, re, mi, mi, fa, sol. Ma se io voglio eludere questo suono e renderlo più arioso, più aperto e più ambiguo, metto le note ogni quattro, per esempio do re mi fa, fa sol la si, che poi si mette il si bemolle e suona meglio, quindi eccolo qua. È maggiore o minore? Perché maggiore è così, minore è così. È così che roba è? Non lo potete decidere, perché l'orecchio non ha a disposizione delle note che ti fanno dire questo è maggiore o minore. È un accordo aperto, ambiguo, e sono esattamente questi gli accordi che McCoy Tyner suona all'inizio. Sono aperti. E la cosa fantastica, il lavoro che fa Jimmy Garrison, è che sotto questi accordi sono talmente aperti che sotto ci puoi mettere qualsiasi nota, non viene mai dissonante. Sentite? Per esempio così. Funziona sempre. Questo è l'effetto. Entra la batteria come in Mau Mau, stesso ritmo. Questo tipo di linguaggio armonico non è stato proprio inventato da McCoy Tyner, ma è Tyner che lo ha fatto diventare un sistema. Ed è una delle più grandi rivoluzioni armoniche in musica che in A Love Supreme raggiungono il culmine. Perché? Perché Coltrane aggiunge anche un'altra cosa. Cioè, se io ho questa base così aperta, qui succede una cosa che in musica non era mai successa, e la base è statica ma aperta, i motivi che io suono sopra possono, come dire, viaggiare. Posso suonare non ancorato ad una scala, ad un insieme di note dato, ma mi posso muovere a piacimento. Tanto la base è ferma, ambigua, quindi sopra ci posso infilare quello che voglio. Pochi anni prima, Ornette Coleman, un musicista a cui Coltrane dava molto credito, aveva inventato un sistema ancora più radicale, cioè la base si muove e quello che c'è sopra si muove. Quindi è tutto libero. Non c'è una base stabilita e il solista che si muove. È tutto libero. Coltrane invece non era interessato ancora, poi lo sarà, ma non è ancora interessato a questa libertà estrema. Vuole una base ferma, ambigua, e sopra creare un effetto di tensione, di frizione, facendo cosa? Prendendo il motivo para-ba-ba e muovendolo, trasportandolo continuamente in tonalità differenti, creando un effetto che potremmo definire pan-tonale, cioè come se lui toccasse tutte le tonalità. E questo perché? Perché la parola A Love Supreme, che è associata a Love Supreme, A Love Supreme, che poi lui canterà più avanti, si muove, si sposta, occupa tutto l'universo, va in ogni angolo dell'universo musicale e vola in un certo senso, si diffonde. Una cosa che non era mai successa in musica, avere questa base e il musicista che si muove liberamente, nel jazz soprattutto non era mai successo questo, creare tensione e distensione. Questa cosa avrà un effetto fortissimo sui compositori minimalisti. Terry Riley, Steve Reich ricevono, scusate l'espressione, una tramvata in fronte quando ascoltano questo disco, perché si rendono conto che possono creare il movimento con la ripetizione. So che la musica, per esempio, di Riley e di Reich e di casa qui all'Auditorium viene eseguita spesso, quindi probabilmente ne avrete anche una certa confidenza. È proprio basata sullo stesso principio. E questi compositori lo hanno tratto, lo hanno detto loro, non è che ce lo inventiamo noi, ascoltando il primo movimento di A Love Supreme. ma non è tutto nel primo movimento. Resolution, il secondo movimento, ha una struttura curiosa. È fatto di tre frasi quasi uguali, ripetute tre volte, ognuna di otto misure. È una cosa che non si usa quasi mai nel jazz, una struttura stranissima. A, A primo, A. Chiamiamo A primo perché l'ultima frase è lievemente diversa, diciamo il finale è lievemente diverso dagli altri due. Stile flamenco di Garrison. In modo diverso. E poi c'è il solo. Questo tema, che è stato trascritto da Lewis Porter, in realtà si basa le note principali, quelle cerchiate, sono le note del motivo, espanse, sono queste, là, quelle cerchiate sotto, sono le note su cui cadono gli elementi principali della melodia e sono le note del motivo di base di A Love Supreme, di tutta la suite. Peraltro vi ricordo che poi la struttura ha quell'andamento non consueto con il sax che, fateci caso, entra, esce, fa il tema, poi fa l'assolo, poi rifà il tema, poi c'è il piano, poi rifà un assolo, poi rifà il tema e così via. Noi adesso qui non abbiamo il tempo di riascoltarlo, ma e questa è l'indicazione. Poi c'è il terzo movimento, che come sapete si apre con un energico assolo di batteria di Elvin Jones, un momento tempestoso che può ricordare The Drum Thing di Crescent, per capirci, è proprio il momento del seguire il divino, che però non è un seguire il divino in maniera passiva, ma è invece qualcosa di impetuoso. È proprio un aderire ed un abbandonarsi impetuoso con energia e autorevolezza per afferrare il divino. È un blues, come lo era Bessie's Blues, che era un blues in maggiore, in Crescent, questo invece è un blues in minore, ha delle caratteristiche melodiche un po' complesse che adesso non vi sto a spiegare, è come se fosse continuamente scisso fra la struttura del blues che c'è sotto e sopra la melodia che richiama quella di A Love Supreme, del primo movimento. Comunque, fa così. Ba-ba-bam. È la stessa idea trasportata. Sono sempre quelle tre note. Ci siete? Vedete quante forme, anche espressive, può assumere quella piccola cellula di tre note, quella delle Zeppelin, per svegliare un attimo il pubblico che dormicchia. Quelle tre note sono alla base del blues veloce dal punto di vista melodico, sono alla base dell'espansione melodica di Resolution sono la base del riff che abbiamo ascoltato. Cioè Coltrane, che cosa ha fatto? Immaginatelo lì al pianoforte, come abbiamo sentito in After the Rain, e con queste tre note, e comincia a giocarci, a manipolarle, a capire come può utilizzare quel materiale per esprimere tanti momenti diversi di questo percorso spirituale, perché evidentemente il percorso spirituale è uno, punta ad un unico obiettivo, e questo obiettivo è incarnato nel motivo incantatorio di tre note. E quindi tutti i passaggi di questo percorso spirituale non possono che essere, come dire, sostanziati dalla stessa materia musicale. La struttura di Pure Suans l'abbiamo vista, allora arriviamo, l'abbiamo vista prima, è fatta di soli di piano, di basso, e poi c'è l'assolo di piano e poi di sax, volevo dire, ma andiamo a vedere l'ultimo movimento, Salm, il Salmo. Ora, che sia stramaledetto iTunes, cioè uno dei grandi problemi della smaterializzazione della musica è che non abbiamo più il supporto. Dici, ma sei così nostalgico, attaccato all'LP? Il problema è che chi per esempio compra I Love Supreme su iTunes si perde una cosa del concetto dell'album fondamentale. E qui non c'è questione di ristampa in CD, bisogna avere il disco originale, come quello che comprai io a 13 anni che ho ancora lì. Che cosa succedeva? Un LP era un LP che si apriva, come un libro, ma poi andava messo in orizzontale. Questo era stranissimo, poi era anche scomodo, no? Uno ascoltava il disco con questo, me lo ricordo, insomma, che tenevo questo album in orizzontale. Perché? Perché c'è dentro intanto un disegno di un disegnatore tedesco basato su una fotografia di Coltrane, era una cosa voluta da Coltrane. Coltrane curò ogni minimo dettaglio della impaginazione grafica del disco. Dopodiché sopra, qui adesso non lo ingrandiamo, ci sono le note di copertina di Coltrane, in cui lui spiega il concetto del disco, e poi sotto c'è un poema, A Love Supreme, ok? Un poema religioso in cui si ringrazia Dio, e c'è un poema di tipo mistico, ok? Questa è la caratteristica dell'album interna. Quindi quando uno ascoltava la musica con quest'album fra le mani poteva leggere queste note molto profonde, spirituali di Coltrane, oppure gettare un'occhiata al poema. Nelle note di copertina Coltrane dice che c'è una relazione fra la musica e la parola. D'altra parte l'avevamo sentito cantare A Love Supreme poco prima, in Acknowledgement, su quel motivo, e dice che tra quel poema e Love Supreme e la musica appunto c'è una relazione profonda, ma non ci dice altro. In realtà il musicologo Lewis Porter negli anni '80 ha scoperto una cosa che era sotto gli occhi di tutti, la classica lettera rubata di Edgar Allan Poe, era lì, sotto gli occhi di tutti, nessuno se n'era accorto. La melodia con cui si conclude Love Supreme, Psalm, strumentale per sax tenore, non è altro che la sillabazione musicale del poema che sta nelle note di copertina. Sillaba per sillaba. Quel poema scritto in piccolo sulle note di copertina dell'album, che tenevamo in verticale, bene, vanno lette mentre ascoltiamo l'ultimo movimento, perché c'è il predicatore Coltrane che sta facendo la sua preghiera, ma invece di cantarla, la sta suonando. E Porter ha trascritto la melodia scritta da Coltrane con sotto il testo. A Love Supreme. Tra l'altro nell'accompagnamento ci sono i timpani sinfonici, cioè Elvin Jones trovò dei timpani, proprio perché li trovò lì nello studio, e Coltrane disse, ma perché non li usi? invece di usare i soliti timpani della batteria, prese questi strumenti classici per creare un'atmosfera più densa, più profonda, più scura, su cui Coltrane poggia quella che non è altro che una preghiera, che è questo salmo. E se noi ascoltiamo il disco, cogliamo, senza conoscere questo aspetto, cogliamo, come dire, l'aspetto ieratico, di recitativo della melodia. E invece sotto i nostri occhi, nell'LP, abbiamo la poesia che lui sta effettivamente recitando. Tra l'altro lo fa con una acuta consapevolezza di come funzionano le recitazioni sacre, cioè con queste linee che Porter evidenzia, con queste linee che salgono, mantengono quella che tecnicamente si chiama una corda di recita, in questo caso il sol, questa nota, e poi chiudono, okay? Con quindi un andamento che si ritrova per esempio anche nel canto gregoriano. Non era la prima volta che Coltrane scriveva dei pezzi basati su un testo poetico. Per esempio, lui stesso ha dichiarato che Alabama era stato concepito su un discorso di sul discorso che Martin Luther King fece dopo l'omicidio delle quattro bambine nella chiesa di Birmingham. Più avanti, un paio d'anni dopo, inciderà un brano che si chiama To Be, ed è stato ritrovato tra le carte di Coltrane un foglio in cui c'è una poesia dedicata alla moglie, ad Alice, dove continuamente ricorre questa espressione to be sottolineata, e poi lui ha inciso un brano che si intitola To Be, e tra l'altro un nostro valentissimo musicista di jazz italiano, che è Beppe Scardino, che forse conoscerete, che ha suonato anche qui molto spesso, ha fatto con me una tesi di laurea al Conservatorio di Bologna, al biennio, in cui ha analizzato To Be e ha mostrato le corrispondenze fra il poema che Coltrane ha scritto così a tavolino per la moglie e la melodia di questo pezzo. Il poema, d'altra parte, scritto da Coltrane, non l'abbiamo analizzato, ma comunque si basa su diverse fonti spirituali. Ecco qui l'elemento pan-confessionale di Coltrane. Dentro, mi rifaccio all'analisi che ne ha fatto Ashley Kahn. Dentro c'è la classica orazione all'americana, espressioni del tipo «tieni gli occhi fissati su Dio», «keep your eye on God». Ci sono elementi e principi orientali, come l'espressione «tutto è in relazione», «tutto è fatto di uno», «tutto è in uno», espressioni che vengono dalla mistica orientale. Ci sono elementi del misticismo degli anni Sessanta, una frase bellissima che Coltrane scrive in questo poema, ci ho pensato dopo, poteva diventare il titolo della conferenza, «un pensiero può produrre milioni di vibrazioni». C'è anche una terminologia biblica dentro. Lui è pieno di grazia e divino. E c'è perfino una citazione dal Salmo 19 e dalla Genesi, quindi ci sono delle citazioni dirette dalle scritture. Quindi, come vedete, una sensibilità spirituale aperta, non settaria, elastica e soprattutto, come dire, accogliente, no? Lo stesso Coltrane dice in un'intervista: io sono disorientato dal fatto che ci sono tante religioni diverse che predicano principi e valori differenti. Io vorrei che qualcuno le fondesse in un'unica confessione, ma neanche in una confessione, in un'unica idea di spiritualità. Rimane da capire da dove viene questo titolo, A Love Supreme, un amore supremo, sembra un'espressione appunto di tipo mistico. In realtà Ashley Kahn ha rintracciato uno scritto di un noto predicatore di fine Ottocento, Harry Drummond, i cui scritti sono stati pubblicati e ancora oggi sono ristampati, è uno dei predicatori americani storici più noti, che pubblicò nel 1891 una sua orazione che si chiama Love the Supreme Gift, cioè l'amore, il dono supremo, e nella cui orazione a un certo punto compare anche proprio l'espressione love supremo, un amore supremo. Coltrane lo conosceva? Non lo sappiamo, però quello che è un po' come con il riff che abbiamo ascoltato prima. Di certo Coltrane era, come dire, intriso di questa conoscenza religiosa e spirituale. A Love Supreme uscì nel febbraio del 1900, tra il gennaio e il febbraio del 1965, come vi ho detto, ebbe subito un grande successo, e Coltrane non la suonò mai dal vivo, tranne una volta. Cioè, era un disco, era un concept album, era a supreme gift, un dono supremo in un certo senso. Era un lavoro attentamente strutturato in studio, peraltro usando una tecnica che Coltrane aveva appreso da Davis. Come vi avevo detto, prima di farvi vedere l'ultimo filmato, come vi avevo detto, Coltrane era un secchione, e in quanto secchione, lo dico così ironicamente e affettuosamente, era incline a spiegare tutto. Lui andava dai musicisti e diceva: devi fare così, questo lo facciamo così, perché la ragione è questa. Voi sapete che era uno dei motivi di attrito con Miles Davis, che invece era esattamente il contrario. Davis non diceva nulla ai suoi musicisti, utilizzava una tecnica molto efficace quando si improvvisa. Meno spieghi, più il musicista è portato sia a stare in campana, sia a trovare la propria strada, altrimenti lo condizioni troppo. Quindi sappiamo che, per esempio, quando Coltrane stava nel quintetto di Davis, andava lì e gli rompeva le scale dicendo: ma perché facciamo così? E perché devo fare così? Ma secondo te devo fare più così? Vi lascio immaginare la risposta di Davis. Siccome va in podcast, non la posso dire così, però. E diciamo, era un invito ad andare altrove. In inglese sono due parole. Però per Love Supreme Coltrane adottò questa soluzione. Andò in studio e non disse niente ai musicisti, cioè gli diede le minime indicazioni essenziali. Lo stesso Tyner o Elvin Jones hanno dichiarato: ma sì, lui è venuto lì, ci ha fatto vedere due accordi, più o meno ci ha detto cosa dovevamo fare. Poi, sai, suonavamo insieme da tanto tempo, giustamente sono 5 anni che sono tutte le sere insieme, più o meno sapevamo quello che dovevamo fare. Poi l'abbiamo visto, c'era Crescent di mezzo, cioè c'è un percorso. Quindi A Love Supreme è un disco, non è destinato all'esecuzione dal vivo, ma Coltrane fece un'eccezione, forse se ne pentì anche perché non era molto contento di come andò il concerto. Venne in Europa nel luglio del 65 e il 26 luglio, se non ricordo male, suonò al Festival di Antibes a Juan-les-Pins nel sud della Francia e suonarono A Love Supreme. Peraltro suonarono A Love Supreme in una condizione che oggi ci farebbe inorridire. Allora, suonarono di pomeriggio, sotto il sole, potete immaginare, del sud della Francia, alla fine di luglio, in mezzo ad un pubblico numeroso, ma fatto di gente che aveva fino a quel momento ascoltato Art Blakey, e che di fronte a questa musica così complessa e ardua, tenete conto che in Europa il disco non era ancora arrivato, beh, sapete che successe al concerto di Coltrane? Che la gente cominciò a alzarsi e andarsene. Notate bene che quando noi oggi andiamo a sentire Anthony Braxton o Cecil Taylor e vedete la gente che si alza e se ne va, non venite a dire: ah, perché la musica è difficile. Perché questo succedeva anche a Coltrane. Non era ancora San Coltrane. Non era ancora stato, non era ancora diventato un'icona, soprattutto in Europa. Questa musica era difficile. Sappiate che esiste un DVD della Jazz Icons che riporta integralmente il concerto di Juan-les-Pins, e nel doppio CD di Love Supreme potete anche ascoltarlo se non volete vedere il video. Io vi faccio vedere dal promo del DVD un frammento del concerto di Juan-les-Pins. Thank you. eccetera, giusto un frammentino. Arriviamo alla conclusione, quindi un grande lavoro spirituale, un grande lavoro di preparazione. Coltrane aveva subito le idee chiare? Ha fatto tutto quello che aveva in testa? È tutto così spontaneo? Quanto lavoro c'è dietro? Consentitemi un'ultima sorpresa. Questa è la pagina 1 del manoscritto con cui Coltrane ha preparato A Love Supreme. Come vedete è estremamente dettagliata. Vi indico alcune cose chiave. Andate in alto a destra, a fianco a dove dice pagina 1. Si legge un timbales, due drums, due percussioni. Lui pensava ad un gruppo più ampio. Pensava ad un gruppo con parecchie percussioni, forse con due bassi, con due batterie, quando l'ha concepito. E si è scritto tutta la struttura, guardate in alto a sinistra le cellule melodiche, quella dell'introduzione, poi dice pausa, poi scrive il ritmo della batteria, tam, tu, ta, tu, tam, tu, ta. Ok? Poi dice basso più piano, ecco il basso, tu, tam, pu, ba, tu, tam, tu. Terzo rigolo, vedete? A sinistra? E poi dice vai a mi bemolle minore, si scrive, poi dice a solo in quattro quarti, il quartetto, acknowledgement, e scrive tutti i passaggi, ok? Poi dice pausa, secondo movimento, in si bemolle minore, blues, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo? Vedete quanto è dettagliato? Nella seconda pagina, questo manoscritto si trova, la prima pagina si trova anche su internet, è scritta con una penna blu a colori. Mentre queste pagine, vedete, sono tratte dal libro di Ashley Kahn con la storia della Impulse. E di qui quelle indicazioni che trovate. A sinistra, tenor, tu da, du da, tu da, du da. Quando vi ricordate quando poi comincia a trasportarlo, che abbiamo sentito quell'esempio in cui c'è scritto a fianco play in all 12 keys, suonalo in tutte le tonalità, ok? In realtà sapete che succede? Se ci andiamo a risentire quel passaggio, adesso non abbiamo il tempo per farlo, e studiamo le trascrizioni, scopriamo una cosa, che Coltrane voleva trasportare quel motivo in tutte e 12 le tonalità del sistema tonale. Come dire, Dio riempie tutto l'universo, abbiamo detto. In realtà, preso dalla foga dell'improvvisazione, il pianificatore Coltrane a un certo punto decide di fare in un altro modo. E quindi in realtà tocca solo 9 delle 12 tonalità. Su alcune ci ritorna. Lui pianifica una cosa, ma poi quando va a suonare scopre che preferisce una certa libertà, e questo è molto jazz, perché è più creativa, funziona di più per lui quel discorso, e quindi non sta appiccicato alla sistematicità che si era dato per iscritto, ma lavora invece sulla libertà improvvisativa e costruisce un assolo sicuramente più bello di quello che poteva venire fuori seguendo in maniera rigida le indicazioni che si era date. C'è anche il tema del secondo movimento, quello che abbiamo visto trascritto. Okay? L'ultima pagina, la più sfiziosa, e contiene una prima, poi abbiamo una forma anche più ordinata, contiene una prima trascrizione del poema. Questo è il poema che poi lui sillaba con il sassofono. Notate alcuni punti legati alla quotidianità. Terzo rigo, buy reeds in San Francisco, compra le ance adesso quando vai a San Francisco. Cioè a fianco a thank you God e peace, proprio a fianco a peace, God sotto, c'è scritto buy reeds in San Francisco. Qui vedete l'uomo Coltrane che al tempo stesso poeta, mistico, musicista professionista che deve ricordarsi di comprare le ance e che quindi con la Love Supreme ha trovato un equilibrio espressivo che è quello proprio di tutta la grande musica che deriva dall'Africa. Cioè una musica nella quale l'elemento spirituale non è disincarnazione, non è superamento del corpo, non è abbandono del corpo, ma come in Pursuance, che è questo blues che abbiamo sentito molto energico, è invece la spiritualità radicata nel corpo, è sintesi di corpo ed anima. E forse questa sintesi è proprio l'amore supremo a cui pensava Coltrane. Grazie. Grazie. Grazie.